Radio 24 Reportage. Donne ed Expo, due settimane di dibattiti su nutrizione e diritti umani, di Daniela Abruzzo. L'obiettivo è solo principalmente quello di rendere evidente e visibile l'altra metà della terra, che in questo settore, come in tutti gli altri per la verità, ha contributi di energia, di invenzione, di capacità, di memoria anche. L'altra metà della terra, le donne, giovani, mature, anziane, donne di ogni nazionalità, donne tutte diverse, donne che vogliono fare carriera, donne che desiderano essere madri, donne che la pensano in maniera differente. A queste e altre mille esponenti del gentil sesso si rivolge Women for Expo, un progetto di Expo Milano 2015 in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori. Quasi due settimane, dal 29 giugno al 10 luglio, per riunire le donne di tutto il mondo e discutere di cibo, nutrizione e quindi di vita, di diritti umani. L'altra metà della terra, Women's Week, è un evento creato per mettere al centro il tema dell'empowerment femminile, del potere, dell'emancipazione in rosa. 12 giorni per presentare un movimento, un'idea, 12 giorni per creare una rete di donne, un progetto che si spera diventi uno spazio di dibattito permanente all'interno delle future posizioni universali e chissà anche oltre. Un sogno che il presidente onorario di UE, Emma Bonino, vede finalmente diventare realtà. Ed è un, diciamo, protagonismo al femminile in questo settore, ma anche in altri, che non è mai stato molto presente in Expo, non perché escludesse le donne, ma perché di fatto non le valorizzava. E questo senso di queste due settimane con così tante partner diverse, da Oxfam, Save the Children, Valore D, al Forum di Deauville, alla Human Foundation, ti dà proprio la carrellata di quanto questa presenza al femminile sia variegata in tutti i grandi settori. La mia speranza è che questo modo di lavorare insieme, focalizzando su una tematica che peraltro coinvolge metà della terra, adesso non è che stiamo parlando della difesa di una minoranza, stiamo parlando di metà della terra, di tutte noi che siamo mogli, madri, figlie, zie, nonne, eccetera. Per cui mi fa piacere che si sia creata, non ce l'avevo in testa come obiettivo, perché queste cose poi non è che sono top down, o si crea questa specie di sinergia, questa amalgama tra diverse, o non si crea. Per ora si è creata, io mi auguro si consolidi in questa settimana e poi a ottobre, e mi auguro che continui ad andare avanti. Just for you, only today. Amica di Emma Bonino, attivista politica e CEO del Women's Forum for the Economy and the Society, Jacqueline Frangieux è orgogliosa di essere a Milano per l'Expo e poter partecipare al Women for Expo. Lei conosce bene questo progetto, fin da quando era in fase totalmente embrionale, e racconta ai microfoni di Radio 24 perché le Women's Week sono iniziate con una due giorni del Women's Forum Italy 2015. The reason why Emma Bonino and Marta Dassù. La ragione principale per la quale Emma Bonino e Marta Dassù mi hanno chiesto di organizzare un Women Forum di due giorni per iniziare questa importante settimana è il fatto di poter creare una piattaforma. Un luogo dove poter scambiare opinioni pratiche non solo tra le donne italiane, ma soprattutto tra le donne di tutto il mondo. Donne che con i loro interventi dal palco cercano di diffondere, scambiare le loro migliori pratiche. Abitudini che dopo il forum ognuna di loro può utilizzare nella propria vita. Tutte queste donne hanno un background differente, sono attiviste, scienziate, imprenditrici, creative, e penso sia molto importante che questo avvenga in un luogo internazionale dove ognuna può incontrare italiane, russe, americane e francesi, persone di ogni luogo. Ma che collegamento c'è tra le donne e il cibo? Ce lo spiega Vandana Shiva, ambientalista, attivista politica indiana che da sempre si batte per cambiare le politiche agricole e alimentari. Il collegamento tra donne e cibo esiste ad ogni livello, inizia con l'inseminazione. Le donne sono il primo seme, lo custodiscono e lo allevano. E se tutto ritorna nelle loro mani, nelle mani delle donne, beh, di sicuro potremo produrre più cibo. Le donne inoltre sono le prime a lavorare il cibo e infatti al momento il processo di lavorazione industriale non è in ottima salute. Dal mio punto di vista il modello italiano, la dieta mediterranea, è un esempio così chiaro di superiorità per la lavorazione artigianale del cibo che si è sviluppata soprattutto grazie all'esperienza delle donne. Il terzo collegamento è il fatto che nell'agricoltura e nell'industria sono gli uomini a detenere il potere. La prima cosa che fanno è spostare le donne, la seconda è distruggere la salute, la terza è distruggere il pianeta. E le donne sono vittime di questi danni. Giovani donne che sono soggette a tutti i problemi di salute legati alla nutrizione, come l'obesità, problemi che sono prevalenti nelle donne, e anche la loro marginalizzazione. Quindi la connessione è ovunque. La connessione ora deve trasformarsi e rigenerare il sistema del cibo attraverso il potere delle donne. Rejuvenating the food system and through it women's power. Per Vandana Shiva le donne sono le prime creatrici, allevatrici, produttrici di cibo, non soltanto perché attraverso loro la vita del genere umano continua, ma soprattutto per la propensione, per la predisposizione nei confronti della nutrizione. Forse è la stessa che ha aiutato Janet Maro, una ragazza di soli 27 anni, a mettere su in Tanzania il sistema di produzione agricola biologica più veloce del paese, a creare dal niente Sustainable Agriculture Tanzania, un'eccellenza in grado di formare nuovi contadini e contadine e riportare la speranza fra la sua gente. Qual è il suo segreto? L'aver scelto di contare soltanto sulle risorse locali. Mi sono concentrata sulle risorse locali perché penso che se usiamo quello che abbiamo, che è disponibile nei villaggi, noi assicuriamo ai contadini di diventare indipendenti. Tutto questo è molto importante per loro perché hanno tutti i materiali che gli servono nelle loro fattorie. E non hanno scuse per non produrre cibo del tipo non abbiamo semi o fertilizzanti. Quindi tutto questo riguarda l'indipendenza, l'autosufficienza nell'ambito dell'agricoltura e solo così si possono produrre colture sane utilizzando metodi sostenibili ed ecocompatibili per l'ambiente. Using methods that are sustainable and friendly for the environment. Tra le istituzioni presenti all'inaugurazione della Women's Week c'era anche il ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, che ha dichiarato che continuerà a dare con i mezzi a sua disposizione il completo supporto al progetto. L'idea è anche solo di tracciare, come diceva bene prima, un percorso utile alle prossime esposizioni universali per fare in modo che da Milano 2015 in poi il percorso di protagonismo delle sia sempre presente, sia protagonista delle prossime esposizioni universali. Per me già questo fatto, se come sarà, si tradurrà in realtà, fa di Expo Milano 2015 un appuntamento di svolta. Come si fa a insegnare alla gente che non bisogna soltanto consumare e sprecare con voracità, ma preservare il nostro pianeta? Jacqueline Frangeux ci spiega un semplice esercizio. The first best practice is to explain to people. Penso che la migliore abitudine, il migliore esercizio sia insegnare alle persone che la nutrizione è anche un loro problema. Devono avere senso civico, devono sapere che siamo tutti responsabili dello spreco di cibo. Tutti possiamo migliorare la condizione della nutrizione nel mondo, tutti dobbiamo educare i nostri figli a questo. Perché i nostri piccoli sono preoccupati da quello che succederà nei prossimi 15 anni a venire. Io penso che questo sia importante e che tutte le donne possano comprenderlo. Per Per Claudia Parzani, presidente di Valore D, associazione organizzatrice insieme ad altre del Women's Forum Italy 2015, questo progetto rappresenta un vero e proprio movimento. Una delle cose più importanti mi sembra l'eredità che Women for Expo potrà lasciare. Ha ragione, credo che questa sia una tappa. Una tappa vuol dire che è una tappa rispetto all'evento Expo a Milano, quindi le donne hanno cominciato a farsi sentire prima di queste Women's Weeks e continueranno a farsi sentire fino alla chiusura alla fine di ottobre. È anche una tappa rispetto al mondo delle esposizioni universali, quindi l'Italia è il punto di partenza di questo movimento delle donne. Le prossime esposizioni universali dovranno dare una voce alle donne. Voglio che le cariche importanti, dove si decide per il mondo, vengano assegnate solo a donne, madri di figli. Women for Expo è come un puzzle, composto da tanti pezzi senza che nessuno prevalga sull'altro per importanza. Tutti questi pezzi insieme invece compongono un quadro importante ed è quel quadro, fatto da tante parti, che bisogna tenere unito per risolvere i problemi legati alla nutrizione, ma soprattutto per nutrire il pianeta. Ambiente non è solo un'atmosfera, una rogna nelle mani di chi resta. Il sasso su cui poggia il nostro culo è il padrone della festa. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.